Tempo di sport con Carlo Genta. In un mondo fatto di parole come il nostro, vi assicuro che in certi momenti è impossibile trovarle, e non solo perché i fatti sono accaduti come avete sentito nel giornale radio e stanno accadendo ora, ma perché è proprio impossibile. Piermario Morosini, giocatore del Livorno, oggi giocava una partita di Serie B a Pescara al 31esimo del primo tempo. Si è accasciato a terra da solo, intervento immediato, è stato soccorso con il defibrillatore, è stato portato via in ambulanza. La prima notizia era quella di un coma farmacologico, è stata confermata una crisi cardiaca con successivo arresto cardiocircolatorio, e poi la notizia del decesso di questo giocatore che aveva 25 anni, è stato anche nazionale under 21. E si aggiunge drammaticamente ai troppi casi che abbiamo visto e vissuto negli ultimi, non dico mesi, ma giorni. Saluto e ringrazio Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ben ritrovato. Saluto e ringrazio anche l'altro Giorgio De Luca in redazione, Filippo Reggio in regia, il dottor Piero Volpi, ben noto medico dello sport di tanti club, oltre che ex calciatore. Dottore, buonasera. Buonasera a voi. Starà apprendendo da noi, immagino, ciò che è successo. Sì, sono stato raggiunto anche telefonicamente da alcuni, diciamo, operatori del calcio che sì. Mi hanno informato. Adesso purtroppo da pochi minuti sì, ho saputo anche la notizia che è tragica. Beh, un primo commento, se a caldo così, che posso fare è questo, che tutti questi casi, che c'è un'anomalia, che c'è una densità, cioè come ha detto lei giustamente, la prima anomalia che mi viene in mente è che purtroppo non c'è stato mai un verificarsi di un certo numero di casi, sempre limitati, però numericamente cominciano a essere un po' rilevanti, così ravvicinati. Penso a Mumba, penso a Bovolenta, penso adesso a questo Morosini, molto ravvicinati. Primo dato. Secondo dato, devo ricordare a tutti che questi sono giocatori, atleti super controllati, perché questo va sempre ripetuto, hanno controlli ogni 6 mesi, nel calcio professionistico c'è un controllo annuale molto selettivo e ripetuto a 6 mesi, e quindi questo però deve, ovviamente non ci toglie dal capire, dal conoscere che cosa è successo. Questo purtroppo, devo dire, vista l'evoluzione di questo caso, lo si saprà solo con l'autopsia. Ricordo come ultimo dato che alcune, come è stato già detto, è stato scritto anche in modo corretto per il caso Bovolenta, anche giocatori, atleti super controllati, una maglia stretta di un'imperfezione, di un'anomalia, di una coronaria per esempio, che è una delle cose più frequenti, sfugge ai controlli, e questo può determinare purtroppo quello che abbiamo visto oggi. Andrea Zorzi è stato toccato dal vivo, perché Vigor Bovolenta era un suo grande amico, e oggi ci troviamo qui, Andrea, non lo sapevamo fino a quando sei arrivato, fino a pochi minuti fa, a commentare un altro episodio di questo tipo. Credo che l'unica posizione sia quella di cui parlava anche il dottor Volpi adesso, cioè che poi è sorprendente, questo non ha nulla a che fare con la sensazione personale o emotiva, il fatto che sono tanti. Ora, è vero che talvolta si ritiene anche che sia a causa dei media che fanno risaltare alcune notizie, succede con gli incidenti aerei qualche volta, in cui la sensazione è quella che in certi momenti ci sia una maggior densità di disastri o di... però è veramente, cioè è inconcepibile. Non so bene che dirti, nel senso che sono tanti, sono tutti giovani, poi tra l'altro sono super controllati. Qualche volta sfiora un terribile dubbio che sia legato al doping, anche se in alcune discipline in realtà è abbastanza infrequente, però in questi momenti uno pensa a tutto, però non se ne viene a capo. Lei che dice, dottor Volpi? Ma io direi che mi fermerei alle considerazioni, anzitutto saluto Zorzi, direi che le cose che dice sono corrette, e mi fermerei però alle prime considerazioni, perché di fronte a un evento di questo tipo anche chi parla, anche chi ha competenza deve veramente centellinare, lo dico a me stesso, le parole, gli aggettivi, potremmo toccare tanti campi e dire ma ci può incidere questo o quell'altro, ma mi fermerei ai primi 3 punti che io ho detto, che sono quelli che secondo me l'organizzazione del calcio, ma direi l'organizzazione sportiva in questo momento deve riflettere, cioè A, se effettivamente che tutti i controlli fatti siano ovviamente corretti, e questo non bisogna avere dubbi, aspettare l'esito della causalità. E poi magari capire, chiedersi il perché effettivamente la densità è un po', come dire, in certi momenti aumenta, oppure si verificano più episodi di questo tipo. Per ora io questo ci può portare a tanti discorsi, certo, sul fatto che si gioca troppo, perché non è solo quella dell'assunzione. Per l'appunto io ho un ascoltatore che mi scrive, ma non può dipendere dal fatto che si gioca troppo in modo estremo, troppi farmaci o controlli troppo superficiali? No, i controlli qui distinguiamo, non dobbiamo essere superficiali. Su questo ultimo punto sono d'accordo con l'ascoltatore, potrebbe essere una linea di studio, di valutazione, cioè io per esempio per altri versanti, non per fortuna, non per cause così gravi, causalità che portano alla morte di un atleta, ma per esempio sugli infortuni è da anni che con l'associazione calciatori mi sto battendo per un tavolo sui calendari, perché si gioca molto e c'è il rischio, si vedono, c'è un'incidenza traumatologica di lesioni molto elevate, ma sa, voglio dire, quando uno si rompe un menisco è una cosa, ma quando poi si hanno queste situazioni è totalmente una cosa diversa, quindi bisogna capire se effettivamente anche l'alzare l'asticella della prestazione sportiva nel calcio, ma in tutti gli sport devo dire, è effettivamente poi una cosa che può effettivamente portare a situazioni di questo tipo. Dottore, io la ringrazio. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie. Buona giornata a voi. Mentre aspettiamo tanti eventi in questo weekend di sport estremamente interessante, mentre è stata una settimana davvero interessante per molti temi e molti argomenti anche divertenti, ci troviamo alle prese con questo dramma sportivo avvenuto oggi a Pescara con la morte di questo giocatore professionista del Livorno di 25 anni, cioè Morosini. Vorrei girare anche a te questa domanda dell'ascoltatore via SMS. Si gioca troppo in modo troppo estremo, Andrea? Può essere una valutazione, e quindi si è costretti a sovraccaricare il fisico, il sistema nervoso, a usare farmaci magari anche leciti, ma in modo così eccessivo per sopportare questo tipo di stress? È chiaro che lo sport è cambiato, questo è naturale, si gioca in modo tra virgolette più violento dal punto di vista fisico in qualunque sport, compresa la pallavolo. Certo, no? Sono, in genere vanno di pari passo, la richiesta di prestazioni fisiche più alte va di pari passo con una preparazione che è in grado di fornire prestazioni più alte, l'equilibrio stesso, la salute in qualche modo diventa in modo molto evoluzionistico, l'atleta che va avanti è quello che per varie ragioni riesce a stare a quei livelli che sono ciò che viene richiesto dalla prestazione, quindi esiste una sorta di equilibrio interno che si autoalimenta, e non c'è dubbio che negli ultimi anni l'impatto fisico in tutte le discipline è diventato sempre più importante, se ne parla spesso anche solo per questioni estetiche, non sempre una partita di calcio più veloce o di pallavolo in cui si schiaccia più forte è più divertente e più bella, anzi talvolta rimpiangiamo i tempi quando a tennis giocava con la volée, adesso non si riesce più a farlo. Però non so dirti, nel senso che ciò che è sorprendente è che gli stessi controlli, le visite mediche, io su questo sono d'accordo con Volpi, sono estremamente accurate. Sì, sì. E sono e anche lì non ho il dubbio, neanche notoriamente il dubbio, che ci siano, come dire, delle superficialità o poca attenzione. Che poi adesso la frequenza diventi un segnale che non si può tralasciare ancora una volta, e dire ci sembrava di fare il massimo fino a ieri, ma se in un mese tre persone muoiono, forse vale la pena ripensare ancora da zero se i controlli, se ciò che sta accadendo sia in qualche modo, sì, cosa si può fare. Però sportivamente questa settimana ci ha dato un così, no, come flash, un dato in controtendenza di cui tra poco parleremo. C'è stata la settimana dei grandi vecchi, dei giocatori cui si è prolungata tanto la carriera ad altissimo livello. Sì, occhio però a non fare anche lì l'errore. Se ne parlava qualche giorno fa del Piero, quanto è rimasto in panchina quest'anno? Sì, ma tanto. Uno che si allena benissimo, tanto. Che a questa età era impensabile 20 anni fa pensare di giocare, quindi non c'è alcun dubbio che la qualità fisica di Del Piero, di Totti, di Schumacher stesso è notevolmente superiore ai pari età di qualche anno fa. È anche vero che però adesso su questa eccezionalità della prestazione pesa proprio il fatto che abbiamo a che fare con un momento nel quale abbiamo il gol di Del Piero, il gol di Totti, il secondo posto mi pare di Schumacher nelle qualificazioni. Oggi terzo, però si legge secondo perché secondo Hamilton scalato di 5 posizioni, quindi domani torna ad affacciarsi in prima fila mica Schumacher. Ed è una lettura, per passami il termine, verticale, cioè questa situazione emerge dalla quotidianità. Se dovessimo valutare la prestazione invece di questi grandi vecchi in una sorta di divisione per giornata, avremmo quella che è la prestazione tipica di un atleta un po' più avanti con gli anni, che è in grado di concentrarsi su un grande evento, fare una grandissima prestazione, forse vincere lo scudetto, potrebbe essere quella punizione lì risulti decisiva per lo scudetto, però poi la continuità. Cioè tu dici che sulla quotidianità l'età la senti? Tutto non si può avere. Tutto non si può avere, però io posso anche parlarti ad esempio di uno dei miei argomenti preferiti, cioè di basket, dove c'è Gianluca Basile che l'altra sera ha fatto una partita strepitosa, era reduce da un mese di infortunio e ha detto dopo questo mese di infortunio la notizia che a 37 anni sono ancora vivo, però lui ha giocato una stagione strepitosa dall'inizio alla fine. Quindi, ma guarda che prova a mettere nei panni di un allenatore o di un direttore generale, io credo che creare una squadra che sia un buon mix di grande esperienza, di giocatori esperti ma molto motivati, di giovani che fanno quella qualità e che possono aspirare a crescere, sia un po' il tentativo di tutti. E quindi sarebbe stupido dire che non servono, che la squadra deve essere giovane, la squadra deve essere la migliore possibile, e talvolta la squadra migliore possibile è fatta di quell'anziano che riesce a fare un tiro solo in una partita ma lo mette dentro, e però a quel punto se l'hanno portato la forza dei giovani. Parlavamo di Samuele Papi, ma possiamo fare molti esempi, cioè di Natale che probabilmente tornerà in nazionale proprio perché i giovani i giovani o hanno problemi fisici, perché pure Giuseppe Rossi oggi questo titolo sembra quasi ridicolo, no? Giuseppe dramma Rossi, quando il dramma è quello vero che stiamo vivendo, però gli si è spaccato lo stesso ginocchio appena aggiustato di nuovo in allenamento, stava riprendendo di nuovo lesione al rottura crociato. Del crociato dello stesso ginocchio appena operato, e sta fuori un altro sacco di tempo Anche lì, sai, sempre ha ragione Volpi, nel senso che quando si parla di una persona in modo specifico occorre essere molto cauti e aspettare quelle che sono le posizioni ufficiali. Quando le guardi invece con un po' più da distante e leggi il gruppo, in realtà ci sono delle tendenze che tornano in mente. Allora, il caso di Giuseppe Rossi, l'idea che sia infortunato nella fase di recupero fa pensare anche, vuoi dire che legittimamente voleva andare agli europei, voleva velocizzare quanto possibile il recupero? A volte salutiamo con grande celebrazioni i recuperi veloci di grandi atleti, dietro ci stava il rischio di andare troppo veloci. Però questa è proprio la quotidianità. Sì, c'è anche oggi, sentivo il suo agente che dice adesso valutiamo anche se era stato aggiustato bene la prima volta. Questi sono comunque altri discorsi. Ricordiamo comunque Franco Baresi che torna ai mondiali a giocare la finale dopo che è stato operato il menisco. Leggiamo il passato guardando al risultato o all'effetto di un tentativo, è un po' troppo complicato, perché per uno funziona, quindi bravi tutti, magari la stessa identica cosa non funziona, tutto sbagliato. Così è un po' dura. No, dipende anche strutturalmente dal giocatore, dall'atleta di cui si sta parlando. Parliamo invece anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, mentre c'è anche la notizia, direi insomma minimo sindacale, per cui verrà osservato un minuto di silenzio in campo prima di tutte le partite in programma in questo fine settimana per Morosini, appunto. Leonardo da Varese, poi Enrico dalla provincia di Alessandria. 800 24 00 24, numero verde. Leonardo. Buonasera a lei e ai suoi Radio 3 ascoltatori. Ma io volevo un po' generalizzare proprio sul fatto accaduto oggi, che comunque di per sé rappresenta un evento tragico, ma generalizzando invece su tutta questa popolazione di sportivi che ogni giorno pratica sport a livello agonistico o solo amatoriale, di come la visita medica di idoneità sportiva molte volte viene presa come solo ed esclusivamente l'ottenimento di un certificato, mentre invece tutto sommato è un elemento di valutazione preventiva, anzi direi l'unico momento di valutazione preventiva per fare dell'attività sportiva. Io sono un triatleta e qualche centro sportivo di medicina dello sport l'ho frequentato e devo dire pochi sono quelli che effettivamente fanno delle valutazioni approfondite. Il professor Volpi diceva giustamente che esiste una casualità per il quale neanche questi professionisti possono essere indagati fino in fondo per poter in qualche modo eliminare queste possibili cause. Per cui mi rendo conto che però per tutta quella popolazione di sportivi, ripeto, agonisti o no, quelli di domani che ad esempio si prestano a fare una maratona a Milano, hanno magari fatto un test di idoneità su uno scalino. Dopo 3 minuti il medico dello sport lo mette su un lettino e fa un elettrocardiogramma. Secondo me sono valutazioni queste non approfondite e che in qualche modo se lo fossero eviterebbero, ripeto, agli sportivi in generale magari queste situazioni. Anche se ci sono da fare vari distinguo, perché un conto è chi va a correre nel parco come molti, un altro conto è chi usa il proprio corpo come strumento di lavoro. Ma sai, Leonardo ha ragione nel dire che stabilire lo standard che si ritiene il più opportuno, il più corretto, per avere una soglia di attenzione è giusto, cioè che tipo di visita medica occorre fare per fare attività. Io credo che in Italia sia accettabile. Ha ragione nel dire che talvolta si fanno tre passaggi sullo scalino, veloce elettrocardiogramma, fatto finito. Io però ho anche la paura contraria talvolta, questa estrema medicalizzazione dello sport, per cui alla fine sembra veramente che per fare una lezione di fitness, di qualunque tipo di fitness, devi passare sotto chissà quali scanner. Allora, certo. È vero che sulla salute non si deve assolutamente lesinare, bisogna essere molto corretti. Allo stesso tempo, è la solito discorso. È un po' l'equilibrio che dobbiamo ricercare, perché sennò si corre il rischio di cascare di qua di là. Enrico, provincia di Alessandria. Buonasera a voi. Un intervento rapido soltanto perché, appunto, sentendo la triste notizia di oggi, mi rifaccio all'intervento degli ascoltatori di prima, cioè io faccio il medico di famiglia. Vi posso assicurare che e sono iscritto alla Federazione Italiana Medico Sportiva, vi posso assicurare che purtroppo, se da un lato, come diceva Zordi adesso, non ci deve essere una medicalizzazione esagerata per quel che riguarda le attività sportive, dall'altro canto, ne avete già parlato tante volte voi, ci si scontra spesso con atleti della domenica che però vogliono correre o ottenere prestazioni non della domenica, ma di tutta la settimana. Cioè, io 10 giorni fa ho controllato la pressione ad un mio amico paziente che va a correre in mountain bike e il trofeo, la cosa più grossa che possa vincere è un cambio nuovo sellino. Aveva dei valori pressori, una frequenza cardiaca che, grattando, ma non ci voleva molto, ho scoperto che prende delle sostanze per fare delle gare nella nostra provincia. Quindi mi sono sentito di chiamarvi perché i grandi atleti vengono controllati e spesso purtroppo la casualità purtroppo si nasce anche con un gene sfortunato, mettiamola così. Però ragazzi, quelli che fanno attività sportiva a livello dilettantistico tengano da conto la propria salute. Assolutamente. Ecco, era questo che volevo dirvi. Perché, e ha fatto benissimo, perché è un tema che comunque tante volte abbiamo affrontato. Questo lo ripetiamo, anche io lo ripeto, chi fa sport tenga da conto la sua salute e non faccia il superuomo se è un uomo, perché non ne vale la pena, davvero, abbiate cura. No, ma poi ho sempre detto, qui è chiaro che scivoliamo su un piano molto diverso, che è quello del doping, e la mia idea è che i rischi maggiori li corrono proprio gli sportivi della domenica che vogliono fare i supereroi. Numericamente non c'è alcun dubbio. Che vogliono fare supereroi, perché invece gli sportivi professionisti che imbrogliano sono comunque godono di un sistema di monitoraggio, comunque nella loro perversione, che è molto diverso. E hai ragione, infatti abbiamo accennato a questo fantasma che aleggia nel doping. Vabbè, ma perché porsi la domanda è legittimo, Andrea, è inutile stare... E anche, però, legittimo, lecito in, è anche in vero, qualunque caso. Anche qui, senza fare distinzioni, però è anche vero che parliamo di discipline che non sono sovraesposte al rischio del doping, però nel momento in cui avvengono drammi con così grande frequenza, uno inizia a farsi tutte le domande possibili, tra le quali aggiunge anche quella del doping. Quando accade ad un ciclista, non è un dubbio. La prima reazione è: hai visto? E un altro che, siccome ha fatto uso di sostanze dopanti, il cuore non ha resistito. E quindi, insomma, anche lì ci vuole molta cautela. Però ha ragione il medico ad invitare la popolazione in generale ad avere quel buon senso di non esagerare, di fare le cose con un po' di cautela. L'aspetto professionistico è sicuramente trattato in modo diverso, e poi siamo qui però a raccontare che in poco meno di 3 settimane sono 3 casi da cui non abbiamo, di cui non sappiamo cosa dire. Dunque, una notizia, un flash di agenzia che vedremo di approfondire nel corso della pausa che ci attende, parla di stop ai campionati per questo fatto sconvolgente che ha coinvolto oggi Morosini. Allora, ora è ufficiale, non si giocherà a calcio in questo fine settimana, a cominciare da Milan-Genoa, scusate, che era in programma tra meno di mezz'ora, perché la Federcalcio ha deciso la sospensione delle competizioni di tutti i campionati di calcio nel fine settimana dopo la tragica morte di Pier Mario Morosini. Lo ha annunciato il direttore generale della Federcalcio Antonello Valentini, e appunto a partire da Milan-Genoa in programma alle 18 non si gioca alcuna partita di questa giornata di campionato su nessun campo di calcio. Una decisione onestamente senza precedenti, Andrea. Sì, senza precedenti, coraggiosa, che rischia di essere presa un po' anche come demagogica, sì, magari. La domanda, per la verità, è: qual è il modo migliore per reagire a una tragedia come questa? Cosa si può fare? Ed è evidente che poi ognuno ha il diritto e anche la responsabilità di decidere personalmente. È anche vero che chi è a capo di una federazione o della Lega deve fare una scelta che coinvolge gli altri. Sì, e che non può essere una via di mezzo, cioè o si va avanti, si fa un minuto di silenzio, ovviamente, come dicevo prima, al minimo sindacale, esatto, oppure si ferma tutto, non esiste alcuna via di mezzo. Si diceva prima, noi abbiamo aperto il programma con la notizia che abbiamo appreso mentre eravamo qui con le cuffie già calzate sulle teste della morte di questo giocatore, e io ho detto subito: nel mondo delle parole oggi è impossibile trovarle, andiamo avanti anche noi. Esatto, andiamo avanti nella convinzione che chi conduce una trasmissione radiofonica debba arrivare in fondo. Sì. Senza sapere se sia la cosa giusta, senza sapere che alcune cose di quelle che abbiamo detto non possono essere considerate assolutamente errate, sbagliate, una mancanza di rispetto, però si va avanti perché nel dubbio l'unico gancio a cui possiamo attaccarci è l'idea che 2 conduttori radiofonici portano in fondo il loro lavoro. Forse è giusto così. E non c'è dubbio che il mondo continuerà ad andare avanti, non è questa la discussione, però continuare in qualche modo rischiando di far finta di nulla perché si va avanti, è questa l'unica soluzione possibile? Sì, non lo so, anch'io mi interrogo sull'opportunità di questo stop totale a tutti i campionati di calcio, che è un segnale molto forte, è una tragedia che è accaduta per colpa di nessuno, fino a prova contraria. Non vorrei che fosse una decisione dettata dall'emozione fortissima, violentissima del momento, ma fin anche eccessiva. Però se anche lo fosse, se anche lo fosse, ognuno, in base al ruolo che ha, prova a reagire come è capace, come gli viene, e in base alle responsabilità che ha, può commettere errori o fare scelte che hanno conseguenze su tante persone. Se io fossi rimasto a casa in questo momento, avrei trovato forse il mio modo personale di reagire con un'altra morte di un atleta. Se sono in radio, dico qualcosa e qualcuno mi sta ascoltando e mi trovo in una situazione diversa. Però, ripeto, per davvero, la convinzione è: non diamo per scontato che la scelta migliore sia andare avanti. Sì. Perché se c'è demagogia teoricamente, o possibile demagogia anche nel bloccare il mondo del calcio, ma ci può essere anche dall'altra parte fare finta di fare ciò che si ritiene corretto per rispettare un fatto su cui non c'è nessun tipo di relazione, però si continua ad andare avanti. Questa è la domanda. Qualche volta io ho l'impressione che la storia dello show Must Go On sia diventata un trituratore che, volente o nolente, giusto o sbagliato, intanto va avanti. Perché? Perché deve andare avanti. Ma perché deve andare avanti? Perché si che fa è giusto così. Perché si fa così. Perché si fa così. Ed è una domanda seria. Ah, sicuramente. La risposta non è allora fermiamoci. No, è chiaro, però sicuramente qualcosa su cui riflettere, e poi si aprono migliaia di rivoli, no, su questi discorsi. Tra poco gli ascoltatori, che sono molti, 800 24 0024, forse anche lì potrebbe essere interessante, invece che concentrare tutte le nostre riflessioni sul fatto che questa decisione sia giusta o meno, e come tutte le decisioni può essere un po' giusta o un po' sbagliata, capire qual è poi alla fine personalmente nel nostro mondo ciò che questo può significare. Sì. No, dicevo, apre mille rivoli. Per esempio, uno che a me interessa molto, lo suggerisce Adriano, un osteopata che ha scritto un po' di tempo fa un messaggio, qualche minuto fa un messaggio: l'uomo è fatto per il cammino veloce, per il cammino anche veloce, ma non per la corsa. Vabbè, questo mi sembra un po' eccessivo. L'attività fisica fa bene, l'attività sportiva fa male. Allora, io non sono convinto di questo. L'attività sportiva fa benissimo, però a me vengono sempre in mente su altri temi ben diversi le parole di anni fa di Carlo Ancelotti: lo sportivo professionista non è una persona sana. Questo è un altro tema. Ragazzi, occhio a infilarsi nella categorizzazione: cos'è sano, cos'è normale. Noi abbiamo questa follia che statisticamente esiste un individuo medio, poi quell'individuo medio rilevato statisticamente non esiste, perché è la media di uno alto come me e di uno un po' più basso. L'altezza media è di 1,70, non me lo ricordo, giusto? C'è qualcuno che casualmente è 1,72, ma poi l'altezza media è solo un simbolo, perché la media di medio è uno piccolino. Vale idem per il peso, uomini e donne e quant'altro. Allora, non soffermiamoci troppo nel generalizzare, che è una buona operazione perché aiuta, ma è una operazione simbolica. Sì. Marco, Pordenone, poi Federico, provincia di Modena, poi Fabio, provincia di Bologna. Marco. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda, forse un po' da ignorante. Io ho 37 anni e sono appassionato di sport, di motori, in particolare di auto. Mi ricordo che quando ero piccolo vedevo piloti morire quasi ogni mese e calciatori quasi mai. Adesso invece mi trovo a 37 anni che vedo calciatori, pallavolisti, che non pensavo fossero sport pericolosi, invece quasi ogni domenica ce n'è uno, mentre invece appunto in Formula 1 per esempio ci sono piloti sopravvissuti a incidenti tremendi. Io non so, vorrei sapere se c'è qualcosa che si può fare, non so, per rallentare un po' il ritmo delle partite, che o cosa può essere successo in questi anni, perché penso che vi siete accorti anche voi che rispetto a qualche anno fa c'è un incremento pazzesco di incidenti gravi. Attenzione, sono discorsi molto diversi. Formula 1 e gli sport motoristici, la sicurezza è molto aumentata rispetto ad anni fa. Ciò non toglie che abbiamo avuto, e anche di recente, episodi che ci hanno massacrato l'anima. Mi viene in mente subito Simoncelli, eccetera eccetera. Però qui c'è una, se ne parlava prima col dottor Volpi, no? una temporalità curiosa, perversa e diversa dal solito, per cui abbiamo avuto molti episodi estremamente ravvicinati. Mi viene in mente un altro recentissimo, quello di Mancini, ex portiere del Foggia di Zeman, che non giocava più ma era molto giovane ed è morto per problemi di questo tipo, che uno dice: ma ha fatto lo sportivo professionista fino a ieri, c'ha, non so, cosa aveva, 43 anni, 47 anni e finisce in questo modo. Federico, provincia di Modena. Sì, buonasera Genta. Salve. Stavo ripensando a quanto detto dal professor Volpi, che in momenti come questi dobbiamo centellinare le parole per quanto riguarda il doping. Ma là mi chiedo: quando è il momento giusto? Quando ci sono tragedie dobbiamo centellinare le parole, quando tutto va bene ce ne dimentichiamo. Sì. E quindi quando ne parliamo del doping nel calcio? Nel senso che quando... in tutti gli sport, anche statisticamente, c'è sempre qualche caso, nel ciclismo, in qualsiasi sport. Nel calcio, che io ricordi, non c'è mai stato ultimamente un caso di doping. Quindi, insomma, un sospetto lecito mi sorge. Beh, ma questo... ci sono controlli ci sono? Allora, ci sono controlli e il suo sospetto è lì, però ne parliamo quando vengono fuori dei casi dei casi acclarati. Poi qui possiamo addentrarci nel bosco anche troppo pericoloso della diversità del regime di controlli antidoping tra sport e sport, però non mi pare neanche il momento questo. È fatica, nel senso che innanzitutto mi sembrava che Federico desse quasi per scontato che in qualche modo c'entrasse il doping, cosa che è tutt'altro che scontata. Sì. E poi nel dubbio, come diceva Volpi, quando è appena avvenuto, quando le notizie sono poche, aspettiamo. Uh-huh. Un po' perché potrebbe veramente non c'entrare nulla, e il discorso del doping va affrontato con estrema serietà, ma non deve diventare questa, come dire, l'occasione. Sicuro. Perché innanzitutto potrebbe essere assolutamente un argomento che non tocca il mondo del doping. Certo. E se anche dovesse essere, secondo me in questo momento prevale tutto quello che è l'aspetto personale, il dramma delle persone che gli vogliono bene, amici e quant'altro. Non c'è dubbio, Andrea, non esiste alcun elemento, come per vale anche per tutti gli altri casi che sono successi di recente, compreso il tuo amico Volenta, no? Dunque, sentiamo, prima di fermarci un attimo, Lorenzo Foggia, da Foggia. Buonasera, Lorenzo. Lorenzo, Vincenzo, provincia di Milano. Ciao. Senti, no, l'unica cosa che mi premeva dire è un po' anche il va bene aver chiuso il campionato queste due giornate, però a volte secondo me è anche un rischio professionale, nel senso che ci sono magari muratori, idraulici o persone che lavorano tutti i giorni, che guidano un camion, che hanno un attacco di cuore e muoiono sul lavoro, e qui secondo me ci vorrebbe proprio anche rispetto in altre situazioni quando accadono queste cose, che secondo me un cuore che si ferma non, cioè, è soltanto... tu dici in altri settori non ci si ferma, nello sport si è voluto dare, nel calcio si è voluto dare questo segnale estremo, è questo che dici? Però l'importante è anche avere, cioè, come dire, io spero che venga colto proprio come rispetto di tutti i lavoratori, perché in fondo un giocatore di calcio è anche un lavoratore che fa quello di professione, rispetto di tutti quelli che magari non incidenti, diciamo, dovuti a cade un mattone in testa è un'altra cosa, ma proprio purtroppo il cuore quando viene a smettere di battere può accadere in qualsiasi momento. Io ho avuto amici a 18 anni purtroppo con una malattia mai diagnosticata perché era impossibile, sotto la doccia a 18 anni è venuto meno. Purtroppo il cuore, anche tutta questa cosa, ma che è sportivo, non se ne sono mai accorti. No, purtroppo ci sono dei difetti a volte che sì. Il nostro corpo è così. Devo dire che Vincenzo fa un richiamo piuttosto utile in questo caso, secondo me ci siamo già concentrati sugli sportivi che hanno i super controlli, che ci sorprendono proprio per questo. In realtà allargare un po' l'attenzione è tutt'altro che trascurabile. Il che non prevede che, come se ad esempio se muore una persona che fa camionista, forse non puoi fermare i trasporti in Italia. Però il calcio in questo senso è questo mondo, il calcio, il mondo dello sport, è questo mondo strano, un po' folle, in cui tutto viene amplificato, e quindi anche la possibilità di guardare con attenzione, di cogliere le opportunità positive che nascono da questo evento drammatico, è bene sfruttarle. Cioè, facciamo una riflessione su ciò che è accaduto, con rispetto per chi non è più con noi, e pensando anche che questi drammi caratterizzano e sono un po' di tutti. Traffico poi, Fabio, provincia di Bologna, 800240024. Vi ricordo i campionati, tutti i campionati di calcio, compreso Genoa, Milan-Genoa, che doveva andare in scena tra un quarto d'ora, sono fermi per questo weekend. Fabio, provincia di Bologna, buonasera. Sì. Buonasera, volevo intervenire perché volevo chiedere, di solito quando leggo di queste morti improvvise fanno l'autopsia e poi dopo non si riesce mai a capire dall'autopsia se c'era un difetto, diciamo, o un problema, diciamo, a monte, o se praticamente è stato dovuto, come molti adesso supportano. Io voglio fare tutti i difetti. Adesso non la sento più, gli esiti delle autopsie poi vengono comunque normalmente comunicati, e insomma se c'è qualcosa su cui indagare si indaga, questo è il senso. Lorenzo, provincia di Como. Buongiorno. Buongiorno. Salve, io volevo dire che mi sembra insulso il fatto di bloccare il campionato di calcio, perché se uno muore in un cantiere non è che blocchiamo tutti i cantieri sì. d'Italia sì, se uno muore in autostrada non chiudiamo le autostrade. Ah, l'abbiamo, cioè, l'abbiamo sentita prima, però mi sembra che pesi, abbiamo già sentita prima, abbiamo già capito il ritornello, però mi sembra che le situazioni siano diverse, mi sembra che pesi e misure siano differenti. Se questo blocco repentino, improvviso dei campionati, come improvvisa repentina è stata questa tragedia, se si può portare a, se sarà un provvedimento soltanto demagogico, può portare a riflettere nella sua tra virgolette violenza, non nella sua visibilità. No, stavo cercando di capire quale fosse il ragionamento che porta a fare un paragone diretto tra il trasporto, l'incidente autostradale, il blocco. E però non possiamo neanche negare che, per qualche strana ragione, lo sport più in generale ha un ruolo diverso, gli viene assegnato un ruolo diverso, sì, che è quello del divertimento, sì, del entertainment, chiamiamolo come ti pare. Certo. E che ovviamente dovrebbe, su un piano, superfluo, vuoi dire. Su un piano molto pratico, è corretto dire che un operaio è esattamente un uomo come un qualunque atleta di qualunque disciplina esso sia. Su questo non c'è mica discussione. È però vero che adesso usare la parola insulso per dire fermare il campionato significa che dunque è insulso avere tre giornali sportivi, avere le TV che parlano di sport, avere Olimpiadi che sono un evento mediatico, è tutto insulso, perché di fatto tutto questo si appoggia sul fatto che, per qualche strana ragione, un po' di fascino, di interesse nel seguire, nel dare allo sport un ruolo un po' diverso c'è sempre stato, esattamente come nel cinema, come in altri settori. Sono uomini, gli attori, gli atleti sono uomini come gli altri, ma evidentemente credo, da quando mondo è mondo c'è anche bisogno, insomma, di avere queste sorte di ritualità. Io in momenti così difficili mi appoggio a chi ne sa infinitamente più di me. Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Buonasera, ciao direttore. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Allora, tragedia. Tragedia che viene dopo altre tragedie molto ravvicinate in termini temporali. Decisione immediata, il blocco dei campionati. Chi è d'accordo e chi no? Adesso a caldo è difficilissimo, insomma, anche farsi una ragione. Io sì. Io sono d'accordo. Sei d'accordo sul blocco? Sì, sono d'accordo sul blocco. Direttore? Ma io mi astengo dal dare giudizi di questo genere, nel senso che non sono, che sono decisioni giuste a prescindere, dipendono dalla sensibilità del momento. Non, mi pare che entrare in una polemica sul sì, no, sia in definitiva anche mancanza di rispetto nei confronti di una famiglia, di una tragedia, di un gruppo di persone. Quindi è l'ultima cosa che mi viene in mente. Ci si attiene a quello, ovviamente, a quello che è una decisione, ma non mi sento assolutamente di entrare con i parametri del giusto o dello sbagliato in momenti di questo genere. E invece su queste tragedie così ravvicinate, è il fatto, è la casualità, è lo stress eccessivo che alla fine ci ha presi alla gola e ci ha dimostrato come così non può andare avanti? Mi sembra presto per dirlo, però che cos'è? Ma io, insomma, farei un passo indietro rispetto a questi giustissimi interrogativi e farei una sana sospensione di giudizio, senza fughe in avanti di nessuna natura, né di tipo sociologico né di tipo scientifico. Voglio dire, cioè, a calcio giocano milioni di persone ogni giorno, non credo che la situazione né fisiologica né dello stress sia cambiata da un anno all'altro, e quindi è meglio non affrettare giudizi che potrebbero essere clamorosamente privi di fondamento. La verità è che noi esseri umani, di fronte a queste tragedie, siamo molto umani, forse un po' troppo umani, non abbiamo molto spesso una risposta a tutte le nostre domande, e a questa, credo, banale considerazione dovremmo attenerci scoprendo la nostra limitatezza, dopodiché scaveremo, indagheremo, ma insomma la semplice e banale considerazione che i nostri atleti sono indagati, sorvegliati, come e molto di più di tanti altri, dovrebbe rassicurarci su quello che è un'attività sportiva. Altro, mi sembra, ripeto, sia una fuga in avanti da cui io personalmente mi astengo dall'entrare. Andrea? No, io sono d'accordo sul fatto che non solo non è richiesto, ma sarebbe ingiusto giudicare giusta o sbagliata la scelta di fermare il campionato. La mia considerazione, che mi porta a essere in linea di massima d'accordo, è legata al fatto che di solito negli ultimi anni si reagisce al contrario. Si prendono le distanze. Si dice sì, è vero, in qualche modo rientrano nelle statistiche, non è il caso di fare una questione personale, e si va avanti. La tendenza è quella che comunque qualunque cosa avvenga, prima non mi riguarda personalmente, o non troppo personalmente, e poi nel dubbio tiriamo avanti in mezzo a un meccanismo. Ora, è possibile che, ripeto, il mondo poi va avanti lo stesso, non è su questa la discussione. Allora, rispetto a uno standard di risposta, che è quello di prendere le distanze, tirarsi fuori, cercare di evitare qualunque tipo di coinvolgimento, ogni tanto tentare la strada opposta potrebbe essere un'opportunità. Questo non rende il blocco dei campionati l'unica scelta giusta, certo, ma certo, è una opportunità della quale ognuno di noi ne farà personalmente il miglior uso possibile. Direttore, ti ringrazio. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento. Grazie. Buona giornata. Franco Arturi, direttore della Gazzetta dello Sport. Abbiamo in linea anche Pier Giorgio da Udine, giusto un flash. Buongiorno a voi tutti. Dica. Sono un ascoltatore assiduo, tutte le settimane vi ascolto i pomeriggi mentre sono per lavoro. La prima cosa è, veramente rimani sempre con la bocca secca, non sai che cosa dire. Ci si ferma. La seconda, domani vado a Manchester a vedere, sono un tifoso da stadi, mi piace girare l'Europa, ci vado mal volentieri. Il messaggio che volevo dare è, non lo so se il blocco del campionato potrebbe somigliare al solito il minuto di silenzio che ormai siamo abituati, è una cosa molto ipocrita da parte di chi lo decide, secondo me. Lasciamo così questo interrogativo. Andrea, ci vediamo un giorno che sarà certamente migliore, magari sabato prossimo. Grazie. Ciao a tutti. Grazie ad Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Filippo Oreggio in regia. Ci sentiamo comunque domani pomeriggio alle 4:30.